Pronto. Pronto, c'è nessuno? Pronto, c'è qualcuno? E ciucca, me la vuoi sare le balle. Chiamando, sono qua, sto guardando alla TV Airport 75, il primo di quei film che parla di disastri aerei, no? Airport, io avevo visto Airport 77, mi pare. Sì, sì, c'è il 75, 77, Airport 80 con il Concorde, sì. E c'è Charlton Heston, poi altri attori conosciuti, dai. Solo che adesso fanno quelle pubblicità delle televendite che non finiscono più. Il film da un'ora e mezza che dura, te lo fanno diventare di due ore e mezza. Scandaloso, guarda. Io vuoi fare la pubblicità è l'arma del commercio, quindi devono per forza fare pubblicità. Eia. Va bene, sì, ho acceso poc'anzi, ho alzato un po' il volume, Crosetto, se chiamano li sento. Solo tu ci sei, come sempre. Natalino, Natale. Non sento nessuno, ho chiamato, lo fa. No, non sento nessuno. Sto guardando il tempo, mi sa che era la pioggia, o domani è domenica, boh. Non ho visto bene, ma comunque il tempo sta iniziando a cambiare nuovamente. Eia, infatti quell'amministrazione meteo, no? Ha rilevato un calo delle temperature, basta un calo abbastanza rilevante, poi sai, fa dei calcoli strani, insomma pioggia, diceva, quando il cielo è nuvolo come era prima segna pioggia. Comunque è una predizione, che ne so, per domani. Comunque domenica mamma ha detto dovrebbe piovere, ma tanto da noi piove, fa spruz così, due gocce e poi non piove più. Io non lo so, stasera era lì biccio, adesso mi sa che sta girando a Maestrale, non lo so, se piove due gocce o piove come Dio comanda. Ma non lo so, da noi non piove mai troppo, anche se piove forte, piove poco, troppo poco. Ci vorrebbe una bella cosa torrenziale, come dice la Bibbia, 40 giorni e 40 notti di pioggia torrenziale, allora li vedi i bacini straripare, altro i vuoti. E infatti sto guardando adesso, computer, vediamo, non è che cosa. Meteo Sassari, eccolo qua, Meteo Sassari domani, poi ecco subito, ma cosa, sì, domenica c'è pioggia, ma leggera pioggia, precipitazione 50%, mentre se è vento 27 km orari. Precipitazioni sparse, niente di che, per domenica. Domani sole e nuvole. Sabato c'è un sole allucinante, 27 gradi ci sono sabato. Oh, prima della pioggerellina c'è bel tempo, via. E vabbè, quindi quando possiamo ci facciamo un giro. Bene, bene. E Natalino si era coricato, ieri si è alzato tardi, oppure è uscito per fare commissioni, insomma, tutto è possibile, dai. A me mi dicono, vabbè, abate ne c'è bisalto, ma io non è che dormo tutta la sera, anzi stasera dalla... sono stato a pulire tre videoregistratori, uno l'ho pulito e l'ho messo da parte, che era abbastanza nuovo, l'altro l'ho pulito e non trovo il telecomando, sempre a videocassette, no? E poi l'altro è un videoregistratore a DVD, usa i DVD. L'ho pulito e l'ho messo in camera, perché tanto qua in questa stanza, nel salone, TV non c'è di più, il decoder non funziona più, credo che non funzioni proprio là, bisogna rifare tutti i cavi, capito? Infatti l'antenna secondaria che noi abbiamo sul terrazzino, che tu hai visto in quella foto famosa, serviva proprio a servire questa camera e al limite la cucina. E insomma qua bisogna rifare cavi e tutto, e buttare anche questo televisore a tubo catodico della Seleco, ce l'abbiamo, pensa, dall'86 e funziona ancora. Ma a colori? Sì, pare sì, più o meno dovrebbe essere l'86 che ce l'abbiamo, 96, 2006, 2006, c'è 30 anni e più ho fatto, incredibile. Come fate a vederlo, ce l'ha presa a scatti per il decoder esterno? Sì, cioè, c'era il decoder esterno, poi pochi mesi fa non è arrivato più segnale, forse qualche cavo si è spezzato, anche perché qua vedo che li hanno fatti un po' troppo ad angolo, e quando sai lì il centrale unico, magari facendoli troppo ad angolo col tempo si spezza, si può interrompere il centrale. Sì, non... poi sai, quei decoder erano decoder telesystem, roba da mensa, non serve a nulla, ci vogliono decoder buoni, sapevo di decoder molto più buoni. E va bene, dai. E ce lo butteremo. Prima rifacciamo tutta la cavetteria, i cavi, poi ci mettiamo un bel televisore, qua non lo so cosa ci starà, questo è un... cos'è questo? Un 28? No, non è un 28, forse 25, 26 pugli. Vabbè, pigliamo quelli a schermo piatto, non troppo grandi, tanto che ci stia in quelli in cavo, ha già il decoder interno. Sì, Giove, ascolta, ma l'antenna esterna tu non ce l'hai più del PMR, sì? Certamente, sempre lì. E non ce l'hai collegato, no? Allora se ti arrivo con l'antenna nella finestra, quella che hai visto tu, ti ricordi? L'altro giorno ti stavo chiamando con quella. Ma te l'ho detto che lì era un buco. Guarda, se vuoi attacco un attimo, dammi il tempo, facciamo la prova. Sì, un secondo solo, è giusto, mi puoi rispondere anche qua se non vuoi. Giusto a vedere se mi ascolti quella appena sulla finestra. Sto attaccando, Sì, c'era cosa che vuoi fare, stavano lavorando, stavano parlando di Walter con Maurizio Butto. Ah, li ho sentiti a 430-100, sì, stavano spiegando, si stava spiegando roba, boh, di impostazioni. In tutte le frequenze che hanno si mettono lì a parlare, boh. Dove vuoi andare, sul 7? Non lo so, no, lì perché, siamo meno fotti. È giusto così per vedere, prova a chiamarmi a vedere se ti sento, prova, chiama Marco. Sì. Aspetta se mi senti tu. Parla, di lusso, parla. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, già arrivo. Sì, non c'è nemmeno fruscio sotto, quindi il segnale è ottimo, tranquillo. Semplicemente lì è una zona d'ombra perché... Mastro Giulio, l'ha sentito a 27? Giulio? Già mi sente, sento anche a lui. Hai visto, arrivo anche alla Spuntas. Oh, mi ascolti? Io sì che ti ascolto. Come Giovanni? Io ti ascolto benissimo, Marco. Sto dicendo che quest'antennino è favoloso e non è PMR, è un'antenna. antennino UHF, monobanda, già l'hai visto. Però è tutto un acciaio inossidabile, capito? Aspetta, ma come già va? Te l'ho detto che noi potremmo usare... Ti posso dare con PMR proprio omologato a norma di legge, ci sentiremo lo stesso tra di noi. Noi tre, tu Pomponio che è vicino, io, forse anche Natalino, forse arrivi anche da Natalino con mezzo quattro. Io non sto usando quello grande, lo sto usando il Voxum. Il Voxum con il microfonino e gli ho messo l'adattatore e gli ho attaccato l'antenna esterna, capito? Ah, sta dicendo Giulio che Natalino stava chiamando poc'anzi. Io purtroppo ero al film e quindi... Ma poc'anzi adesso, Giulio? Poc'anzi pochi minuti? Ah, per quello, ho capito. Aspetta che provo a chiamarlo. Ho chiamato io, non mi ha risposto. Eia, no, perché... Non vuole dare il nome. Io lo chiamo Mister X. Mister X. Ha chiamato qua però, qui, metti 7, poco prima che entrassimo noi, sicuramente ha acceso, ha chiamato, non ha sentito nessuno e ha spento. Che senso ha accendere, chiamare e spegnere? Io qua lo lascio acceso dalle 4 di solito, o dalle 5 fino a, oggi è stata un'eccezione, fino a mezzanotte così. Sai come, qualcuno invece accende, chiama, aspetta 2 secondi, non risponde e spegne. Così che senso ha? Ma infatti io poco fa ho chiamato e non mi ha risposto nessuno, però era sempre acceso, capite? Stavo un po' ascoltando a destra e a sinistra, ma era sempre acceso. Aspetta, te immagini con l'antenna, anche lì punti arrivo. Proprio quella pericolo che ti ho fatto vedere, quella che c'è nella finestra, l'ho messo sotto una piastra nel marmo, una piastra da 20x20 in ferro, con la base magnetica, messa lì. Stazionaria 0, monobanda UHF 430-440, figurati tu, anche fuori banda. Arriva benissimo. Eia, pensa che io, una antenna veicolare, no? L'ho messa dentro casa, no? Poggiata sul tavolo con una... è uno scaffale di quelle librerie metallo, 50x50, no? È proprio quadrata, con l'antenna al centro, stazionare 1-1, 1-2 massimo. Aspetta, pensa, basta che abbia il piano di massa, piano riflettente con la base magnetica e non a stazionare, è incredibile, guarda. Invece una volta ho messo un antennino VU senza la base magnetica attaccato sul palo con la massa effettiva, stazionare a 3 e oltre, non andava bene. Ah, se buffa, stavo facendo le prove. Stavo ascoltando il link nazionale a 431-275, una cosa del genere, boh, non mi ricordo. Arrivava a fondo scala, a fondo scala. Sì, sì, Villanova, 431-2375, sì, quello arriva abbastanza bene. Poi sai cos'è? Tu sei in alto, tu sei in una posizione che anche se sei in antenino è un bisulli. Perciò ti ho detto che anche col PMR omologato arriveresti qua. Capito. E se siamo fortunati anche da Natalino, anche se lui è molto molto chiuso, troppo chiuso è, anche per la 27, purtroppo i risultati sono visti. Vabbè, molto in alto, però tieni conto che hai visto la finestra, è all'interno dei posti auto, quindi all'interno del giardino, l'antenna è al secondo piano, non è in alto, quindi sono coperto, non sono a vista ottica per Villanova. Arriva a fondo scala, roba davanti, senza contare poi l'RU4, tutti gli altri che ci sono, tutti gli altri, oddio, solo l'RU4, vabbè, l'altro che l'incatto, che però ce l'ho vista ottica quello perché è giù ai punti. No, va bene, va bene, no, era quella prova che volevo fare, perché l'altro giorno appunto non ti ho sentito, ho detto ma non è che l'antenna che non sta funzionando, invece sento Giulio fortissimo col portatilino, questa antenna, quindi lui è più lontano di te, no, tu arrivi bene, anche con mezzo watt arrivi. Aspetta che c'è voluto sotto. Dove sotto? Sotto a casa tua? Oh, sono qua, sentivo quelle sotto a voci, che abitava sotto di me, non nel giardino, a voci, ho sentito solo la parola macchine e inculasse. Qualche macchina bidone deve essere beccato lui o roba del genere, dai. Sentivo voci sotto il letto, pensavo che era, c'era gente sotto che parlava, invece è lì a, a casa tua. No, no, sotto casa mia, l'inquilino di sotto. Sempre lui per ogni cosa ne fa una tragedia, no? Ho sentito solo la macchina, la parola macchina inculata, sì, probabilmente ho già problemi la macchina. Sì, perché questo di ogni cosa ne fa una tragedia, no, è sempre a voci. È sempre a voci per qualcosa o con qualcuno. Allucinante. Cioè mi chiedo come. Ehi, già le ha avuti problemi al cuore una volta. Certo, non si rilassa mai, sempre. Mamma mia, avere un marito così, eh? Quella donna è una santa, una santa. Vediamo se c'è. Natali, ci sei qua? Che altro c'è qua? Ma partita c'è, adesso c'è la partita. No, c'è la riferita della, della Roma, gli, che ha giocato col Cesi, ha fatto un partitone 3-3. Stava perdendo 2-0. E hanno giocato tutte bene ieri, anche la Juve ha giocato bene finalmente. Napoli, Napoli stava giocando col Manchester, non è buccia di gioca, vabbè la Roma col Chelsea, ha vinto il campionato, il Chelsea è fortissimo, anche l'Olimpia, ma l'Olimpia, il, quella che ha giocato con, il, con la Juventus, che è abbastanza forte, vabbè, ora vediamo il ritorno e come sono, si gioca in uscio nel Milanesetto 8. La Juve ha giocato con chi? Che ha fatto 2-1, o sbaglio? Sì, con lo Sporting di Lisbona, che ha dato mattana forte a Barcellona, e il Real Madrid mi preoccupa che ha pareggiato. Mi sa che l'anno scorso era l'anno del Real Madrid, il Barcellona era pure, che hanno deciso di guardare il Real Madrid e rimanere Barcellona. Ma chi vince? Poi San Germain. Vince la Champions, vince tutto, vince qua la vita, va a Paris Saint Germain, oh yeah. Ehi, ma no, io già lì non ci arrivo, non intendo. Ma alla fine il film l'ho lasciato stare, tanto li abbiamo visti e rivisti, da caspita, dal 74 in poi, ha voglia vederne di quei film. Mamma se lo stava guardando, perché c'è l'attore suo preferito dell'epoca, Charlton Heston. Guarda, a lei piacevano molto Peter O'Toole e Charlton Heston. Ma quelli sono attori mitici, sono attori straordinari, Marco. Ha fatto bellissimi film e poi sono persone che ci sanno fare. E così poi va. Ma io avevo visto iPort, forse anche il 75 avevo visto, iPort 77 me lo ricordo perfettamente, era iPort 77, direttamente in volo, qualcosa del genere, qualcosa c'era oltre iPort 77, guarda il vento che si sta mettendo e si stanno volando, però non è adatto acqua domani. Eia, vabbè, tanto mi. Adesso no, hai detto si sta alzando il vento, così è. No, qua ancora non me ne accorgo, perché vabbè, infatti, stiamo parlando, il sole è sparito piuttosto. Ma a proposito, vabbè, sono le 19.34, ormai il sole sarà proprio al limite. Sull'orizzonte, sta toccando l'orizzonte, sarà già a metà, sarà calando, dai. 18.40 tramonta, siamo lì lì, più qualche nuvola di passaggio, quindi lo sta coprendo. Eia, siamo al 19, caspita. Vabbè, e poi arriviamo già a novembre, te le immagini? Dopo questo mese, mamma mia, il Natale alle porte, me. Un altro maledetto Natale. Quest'anno, se tutto va bene, già me lo godo il Natale. di Sugar. L'anno scorso ho lavorato a Natale, ho fatto Natale il 25 e ho lavorato dalle 6 alle 2. Sono andato a casa, che poi c'è stato un problema, sono tornato indietro, sono arrivato a casa che ore 4 e mezza alle 5. A cena eravamo a casa, manca mezzanotte, ci si fa perché la mattina dovevo alzarmi alle 6, il giorno 26 ho lavorato lo stesso. L'inculata grande l'ho presa a fine anno, quindi il 31. Mi hanno dato il 31 libero, tu immaginati, proprio una cosa allucinante, il 31 libero, il primo di servizio, quindi immaginati tu a razza di cosa. Insomma, lavorato Natale e Capodanno, così è. Mamma mia. Purtroppo non è come me che sono sempre libero, lì è. Bisogna fidarsi gli orari che danno. Cos'era quella Bulutto? Sì, c'è col PMR, c'è Maurizio con Walter che stanno configurando qualcosa, uno per una parte e uno all'altra, quindi adesso l'ho spento. Cosa stavo dicendo? Ma tu immaginati, alle 11 ero a letto, Marco, non ho aspettato manco a mezzanotte, ma giù butto dei dappini da Recci, mi sono addormentato, mi sono svegliato alle 5 e qualcosa, alle 6 sono uscito per andare a lavorare, il primo dell'anno. No, basta, basta, finito, adesso mi godo tutte le feste, tranquillo che dal prossimo anno io mi godo tutte le feste. Poi perché è abituato a lavorare ci trova un po' male, capito? Così con troppo tempo libero a disposizione. No, già lo impegno il tempo, tranquillo. Mi sentirei ancora meno in radio, nonostante sia non sia più a lavoro, perché c'è un sacco di cose da fare. Devo fare un sacco di lavoro a casa, su, finalmente riesco a dedicarmi su, e c'è un mondefraio, poi viene il camioncino a portare via tutte quelle plafoniere che ci sono su, le ho fatte appoggiare fino a 2 anni, che hanno cambiato le plafoniere delle scale per non stare a capitolo, le hanno appoggiate su, si hanno iniziato da giù a salire, quindi le hanno messe tutte su, portare via quello, c'è un mobile da portare via. C'ho un sacco di cose da fare, ma un bel però. Deve venire l'idraulico, deve fare il bagno, devo finire il quattro perché ho iniziato e ancora uscì. Devo fare mille cose, mille, capito? Un bel. Quindi già me lo impegno il tempo, e a voglia. Eia, addirittura ti sentiremo meno in radio, aspetta. Ma tu ti devi proprio trasferire, no, da lì? Sto aspettando di riuscire a prendere. C'è il cartello anche fuori, nella strada, c'è l'agenzia, che ho messo il cartello, il tuo caso. Sto aspettando, Marco, e se no mi imbarco in spese allucinanti. Per poter terminare su devo vendere qua. Se non vendo qua mi mangio tutto, capito? E allora stiamo facendo un passo alla volta, capito? Spero di vendere più in fretta possibile e poi i giochi sono finiti. Eia, ma tutte le antenne ti metti poi? O solo la mantova lì? No, già, queste adesso lasciamo passare questo inverno, perché oramai, capito? E poi primavera, verso marzo-aprile, sono già d'accordo con gli amici e ne togliamo tutto da su. Poi sono già pronto, capito? Lascio solo la mantova e basta, niente. Qua tolgo già tutto, sbaracco tutto, questa stanza, lascio solo il 440 con il PS50, la colonnina, una linea lascio, la 27 e basta. E il resto tolgo tutto perché poi viene male, capito? Preparo già tutto, tolgo le sue cassette, tutto, porto tutto su mansarda e tengo già tutto pronto, perché sennò poi è un casino. Come avevo fatto quando mi sono spostato in via Pascoli, sono stato una settimana a smontare tutto. No. Questo primavera ho avuto le direttive, c'ho le scale. lavato, non le ho buttate, le conservo, le pulisco, le conservo, metto tutto da parte, no, lì non metto niente, sono manto per battamento, neanche le pure, niente, nulla, nulla, nulla, manto per voi, cb, cb, cb, tu. E tutti quei baracchini dell'armadio, anche quelli ti devi carrare o li vendi? E poi là sono più quelli che questi, perché queste sono di HF, le metti dentro la scatola e ciccia, ah, bisogno, baracchini, baracconi, no, non vendo niente, Marco. Metto tutto dentro le scatole come avevo fatto prima e di là c'è il doppio del posto, capito? C'è una bella cantina, metto tutto giù in cantina, tutto ordinato, farò fare lo scaffale, adesso vediamo che non sono pronto, andrò con Giulio, farò fare uno scaffale, come Cristiano, metto tutto nello scaffale, ben ordinato, pannello chiuso, sportelli, faccio fare una cosa fatta bene, ci butto tutto dentro e rimane tutto lì. La roba che userò sarà la linea sia del 430 che del 440, basta, ho finito. No, non devo mettere altro, se lo metto. E un baracchino metterò buono, non so, se metto il Galaxy che ha 220, che è un barrasone. Non lo so, Marco, è tutto da verificare e da vedere. Adesso sto solo aspettando a terminare il QRL, rilassarmi, riprendere la vita normale, alzarmi come si alzano tutti i cristiani, con la luce, non al buio, il colpo al buio mi alza al buio. E com'è, zona buona? Di dove andrai? Zona alta oppure un po' bassa? Tutto Sassari, vedo, sono più alto di Antonello anche. Oh, sarà lo stesso, forse più alto di dove sia adesso? Non lo so, penso di no, ma comunque lo vedo, Carbonazzi lo vedo, è vista. Si vede il mare, quindi è molto alto. La zona sud di Litterai, capito? Io voglio, se vedi il mare, fatta in me. Ci avrai Antonello Diossi come vicino. Peraltro è entrato un giorno, poi non è più entrato Antonello. Boh. In quel giorno che ho dovuto smettere, sono sparito dal baracchino, non so cosa stavo facendo. Boh. Io già non mi ricordo cosa facevo ieri, figurati se mi ricordo giorni fa. E poi non l'ho più sentito, dai. Magari in ascolto, ma Antonello, ci sei? Già, ci sono sempre, Madonna Santa. Oh. Allora vedi, però non parla mai, non parla mai. Entra più spesso, tanto mi se non stai lavorando, entra più spesso. Ci fai compagnia. No, per carità, no, mi sto sistemando alcune cosettine e poi vengo a fare una chiacchierata. No, io vi faccio sempre compagnia, non ti preoccupare. Baracchino muore quando muoio io. E Claudio è più alto di me, ma speriamo di no. Sono io che in questo momento ho il potere in tutto Ussi. Ciao a te. Siamo lì, dai. Tu sei su Padro, no? Su Padro, vabbè, la casa, vabbè, non ci sei mai venuto tu, quando vuoi la porti aperta. Dove c'è il campo sportivo di Litterai, dai? C'è quel palatenda nuovo che ha chiamato il comune, non so se ce l'hai presente. C'è quella via lunga che si chiama via San Leonardo, e poi c'è la vallata, no? E lì in alto sulla sinistra c'è quel palatenda, poi anche il centro ecologico, non so se ce l'hai presente. Sì, già l'ho visto, c'era anche ieri che ero lì da mio genere, ho capito. Sì, già ce l'ho presente anche me. No, è bella zona quella. No, non ha importanza per me oramai, no. Noi ci siamo più grandi, l'importante è fare due chiacchiere e basta. Come stavo dicendo a Marco, metterò tutto dentro le cassette, questa sala, che è un peccato veramente, perché ho tre radio nuove, due nuove di ultima generazione, una l'avevo presa usata, però pazienza. Rimarranno dentro la scatola. Avanti Nathalie. Buonasera. Dice che il disturbo è sparito. Dice l'ha fatto appena ieri e dopo non l'ha fatto più. Boh. Io ho aggiunto anche l'altro per sicurezza. L'altro filtro. No, ma non mi schiarare con la setta Nathalie, no. Ti ho detto che sulla ZG non si vi annulla. È sparito quando tu gli hai inserito l'altro. Capito? detto Marco, quello è un signor filtro, però avevo letto io. Capito mi hai? Quello signor filtro, quello del ZG non serve a niente. L'ho fatto un pochino quando stavo usando quel filtro, poi come ti l'hai inserito Guido più mano, non l'ha fatto più. Avanti Marco. E adesso ce li ha tutti due. Scusa Marco se ti ho. No, no, ci mancherebbe Nazari. E quindi da tutti è sparito, e il computer del giornalista? Ah, non è venuto nessuno ieri. Adesso vediamo oggi. Mamma mia, speriamo Nazari. Speriamo. Bene, ben entrato, in compagnia di Antonio Di Oxi e Claudio. Poca gente c'era, siamo entrati noi ma non vedo nessuno. Un deserto, anche Alghero tace, magari sono tutti all'ascolto. Vabbè, facciano come vogliono. Vabbè, in compenso gli ha messo a bruciato lo coso del computer, come si chiama, va? Gruppo di continuità, non carica già più, mi faceva saltare pure il contattore stamattina, voglio dire. L'ho aperto, come ti chiudi, si chiude a sua, quindi non sta caricando le batterie. Che gruppo hai? Un attrusso che si possono attaccare due computer, due monitor, due computer si possono attaccare, poi ci sono altri attacchi vari, grosso. Beh, mamma mia, io ne ho uno vecchio nella Trust, che filtra sia appunto che protegge il computer, monitor, linea telefonica, tutte quelle cosette lì, dai. E quando mi si scaricava la batteria, praticamente una banale batteria al piombo, quelle degli antifurti, no? Poi da Fusaro, 20 euro mi pare i costi. L'avevo cambiata già un paio di volte, perché ce l'ho da anni, l'avevo pagata, però il gruppo di continuità, quando c'è sbalzo non c'è gruppo che tenga, il computer si spegneva lo stesso, si riavviava, capito, per lo sbalzo di corrente, quindi alla fine è molto molto relativo, però se ti manda in corto il contattore, allora la cosa è più grave, non è solo la batteria. I paesi gli hanno aggiungavato della giubbotti diretti. Ma io non mi ha mai ispirato molto, sì all'inizio quando era nuovo saltava la luce e rimaneva acceso il computer, però poi anche cambiando la batteria, non è roba professionale, Natali. Infatti non ne uso più, ce l'ho mandato al diavolo e uso, a parte il fisso non funziona più il computer, no, quindi sto usando il portatile diretto alla 220. Meglia. Vai Antonello per Natalino, lo senti? Meglia capa, buonasera Natalino, giustamente buonasera a Marco e buonasera a Claudio, non l'ho detto buonasera, sì, lo sento forte e chiaro. Anch'io ti sento bene Antonello, ben sentito, buonasera. Là. E anche io li ho messi lì, adesso lo mando al diavolo, questo cavolo di gruppo, qua. Quando vuol dire fa brutto tempo, prendo e ne spengo tutto, ciabatte comprese, così almeno non arrivi corrente assolutamente. Volevo chiedere, poi come segnale sempre lo stesso il mio, anche la radio? Aspetta che mi scondo e guardo che da qua non si vede. Certo, lo smitter mio non è affidabile, però fai un passaggio. No, vedi un po', sto utilizzando il Royce abbinato con l'MD più 4, sempre la mia tipica modulazione, dai, non ho mai toccato più niente, sarà sempre nella normalità. Vedi un po'. 9 più 15 qua. Interpretando questo smitter 9 più 15, Claudio da te? Vabbè, da me ce l'ho di fronte, 9,25. Già va bene, dai, guarda, sta uscendo con quasi 5 watt modulati, dai, i suoi vantaggi. No, niente, l'unica cosa che mi devo portare a sistemare è il Galaxy, perché in AM non trasmette. Invece in banda laterale sì, in AM no, devo portarlo a riparare. Guarda, ti conviene ripararlo perché ce n'è uno dentro la scatola che mi hanno dato a vendere a me. Con l'MB più 5, ma lo devi sentire a questi livelli, È da 15 watt pieni in anche di più in AM 25 in banda laterale, quasi 30, ma tanto è un gioiello nuovo, 200 euro, ma nuovo per me, nuovo, Sergio di è nuovo. Vabbè, 200 euro già, è un prezzo giusto per il Galaxy, perché ho visto altri pezzi su internet, ma guarda, volentieri, purtroppo no, non ce li ho, il lavoro è quello che è. Ma allora sempre cambiato il solito finalino, anche la, anche un po' di anni fa me l'aveva fatto, dopo che l'avevo ritirato due mesi dopo dalla Buonanima, e l'avevo portato a riparare, avevo speso 25 euro, una cosa del genere, adesso appena ho la possibilità lo porto a riparare. Poi adesso mi sta funzionando il tutto, solo il Galaxy, sempre in AM, fa sempre così, si brucia questa, non so che diavolo, che componente sia, solo quello si brucia sempre. E basta, poi il resto mi funziona tutto, per 25 euro me lo riparo, no, è sempre in ottime condizioni quando me l'hanno dato. Però volentieri, se l'avrei avuto volentieri, me l'avrei preso come pezzi di ricambio. Beh, avete tenuto quello nuovo, l'altro pezzo di ricambio, no, guarda, un gioiello, nuovo, proprio, veramente bello. E poi esce molto bene, c'è una ricezione favolosa. Frequenzimetro stabile, non lampeggia, originale, tutto originale, molto bello. C'è l'MB più 5 agganciato, io ogni tanto già lo uso, anche l'altro giorno lo stavo usando, però devo usare anche queste purtroppo. Rottura di scatole, boh, sei uscito con quello lì io tutti i giorni e sarei andato di lusso. Invece queste bisogna usarle, sennò poi succede casino. Ho detto, Natali, cosa stai usando? Sempre il microfono normale, hai provato a mettere il più 4? Il più 4 è a 2. Il più a 3, puoi metterlo anche a 3, non c'è bisogno di tenerlo a 2. Anche a 3 va bene, prova. E poi disturbo. Ma cosa devi disturbare? Ma pensi che sia la radio che c'è l'armonica? L'antenna è che disturbava. Se non disturba più col filtro, vuoi già rivalzare un microfono? Non dico di mettere la manetta, no? E te l'ho a 3 anziché a 2, no? Prova. Adesso è a 3. Oh, vedi, è cambiato pochissimo, però sei molto più forte, più chiaro. Puoi parlare anche tranquillamente. Vero, Marco? Eia. Beh, se funziona il filtro già lo capisci. Se non funziona, già senti le voci e quella. Disgraziato! Disturbato le televisioni! Guarda. aspetta. Va. Antonè. Non esce in AM, sarà il solito transistor della modulazione. Io mi ricordo che nel Connex 4000 Echo si trovava di lato, no, rispetto al fianco del coso, e scaldava tantissimo, a qualcuno gli si bruciava. Se tu hai la scheda EPT3006, in quel Galaxy sarà quello. Non mi ricordo che transistor è, però Pomponio credo che lo sappia. Sì, no, perché io ripeto, l'avevo portato sempre dal tecnico che c'è a Sassari, con 25 euro me ne è riuscito, funzionava benissimo, infatti mi ha dato 2 annetti, e poi fai a premere la portante, però non esce, capito? Non si muovono neanche gli indicatori in AM, in banda laterale funziona benissimo, ho provato e mi rispondono, sai, sempre in quelle frequenze particolari, senza nessun problema, solo in AM. In AM ha questa particolarità, e appena è lo porto e lo faccio riparare, poi gli apparati, tutti quelli che sono sempre funzionanti. Questo, bene o male, in questo ultimo periodo sono sempre in gestione, dunque faccio sempre in giro alla fine. Oggi tocca al Royce, vedo che già funziona bene, dai, sempre abbinato l'MB più 4. In FM ce l'hai sempre l'LX, com'era? Ah, il Cobra 29LX, sì, anche lui, ieri era in funzione anche lui. Ecco là, lo sai che in FM non ci ho provato, devo provare in FM. Perché se in FM non è la scheda, allora è unica. Lì sicuramente qualche transistor, ma praticamente non c'ha potenza, così è. In poche parole, premi ma non esce, capito? Premi, però non esce il segnale, adesso lo provo, dai, vediamo un po'. Prova in FM anche. E prova a vedere se ti sento, se ti sentiamo, noi magari sta uscendo con solo il prefinale, quindi sarà andato a farci foto del finale. Il cappaiato bruciava lì. Ah, ma non esce di radio o di segnale, di potenza? Eia, Sì, abbiamo fatto una prova in banda laterale. Banda laterale esce. Però se il finale è bruciato non deve uscire, non deve uscire nessun modo di emissione. E allora cosa è? Oh. Beh, te l'ho detto, no, neanche. Già sto uscendo, sì, aspetta che controllo, Sì. Sì, già sto uscendo. Vedi, in banda laterale funziona, ferme nulla, premi ma no, non va, non va. La ricezione c'è sempre, la sua tipica ricezione abbastanza pulita, no? Sempre così mi fa ogni volta, adesso appena avrò la possibilità lo porto e glielo faccio riparare. Ma tu da chi lo porti? Da Victor? Non ce ne sono altri a Sassi, da chi lo porto? Oh, mica siamo in AM, ma qualcuno è rimasto in banda laterale. No, no, stavo sentendo in banda laterale, ti ho chiamato in banda laterale, ma lo sapevo se mi sentiva Antonello. No, Antonello, se mi senti in banda laterale. Ah, ma col Galaxy? Così, solo in ascolto, se mi senti. Aspetta, che comodo. No, non l'avevo, da quando è stato riparato non l'avevo provato in banda laterale, ma ho capito, per quello te l'ho chiesto, 4.30. Adesso sto usando il 4.30 con le MC60. Non l'avevo provato, però ho pochi watt, ho messo 20 watt, capito? Sì, io naturalmente ho i 12 watt dell'apparato, che questo è l'omologato. Bene, Natalino, a te, ci stavi ascoltando in banda laterale? Già sparito. E come fa a ascoltarti in banda laterale se c'ha il coso, il come si chiama, omologato? Gappa. Va bene. No, comunque ci do tutto a posto la radio, adesso non mi posso lamentare. Prima ho il 4.30 in riparazione, che è un paio di mesi fa. Il 40, vabbè, quello l'avevo già fatto riparare l'anno scorso. E quindi adesso ce li ho tutti in ordine, tutti messi a posto, anche abbastanza in isonda. Natalina arrabbiata, già che si male da fare una prova in banda laterale. Oh, comunque hai ragione, se ci hanno omologato, mi ero distratto, dai. Mi ero distratto. Antonello sei qua, sì. Pomponio non si è sentito né 27 né in PMR né da nessuna parte oggi, dai. Guarda, a volte parli con Pomponio, a Napoli, aspetta, sì. Parli con Pomponio, poi dopo due secondi prende e sparisce e non si fa più sentire. Poi giustamente è rientrato Capri 2, ci ha comprato il suo antennino, sempre tipico Capri 2, dai. Almeno per fortuna ha ripreso di nuovo la voglia di modulare. E se non li fughi a terra allora? Ma infatti, perché ci ha comprato un'antenna, ma io da lontano l'ho vista, non mi sembra molto resistente, di quella così come tipica energy mezz'onda, come c'è voi, per carità, non valgono a niente quelle antenne. Avrebbe un cicciolino in più se avrebbe comprato un'antenna un pochettino più buona. No, mi ha detto che è buona quell'antenna, non vale a nulla. A gusto mio è attenzione, perché io prima di acquistare la mia ho fatto diverse ricerche. La vedo con i miei occhi e non tanto resistente, si vede che è abbastanza fine confronto alla mia. La vedo più leggia, ecco, perché ne ho passato antenne, la Energy Mezz'onda, la Ringo, per carità. E poi c'è quest'altra, la Sirio, che è molto molto più grossa come antenna, si vede un bel antennone, si vede il materiale, c'è materiale in sé come antenna. La sua la vedo troppo leggia, ecco, troppo leggia. Poi che sia buona e faccio il suo lavoro, ma a me dà l'impressione troppo leggia come antenna, troppo delicata la vedo, per le intemperie, sai, e cose del genere. A occhio mio, non sapevo neanche che antenna fosse, una cosa, una sua antenna nuova, però non sapevo che antenna era, capito, Antonio? Natalino. Poi? Beh, mi sei andato. Ho preso mia moglie che mi aveva chiuso dentro perché il cane stava diventando matto. Perché come la sente comincia a abbaiare come un cucciolo e rompe le scatole. No, noi stavamo facendo una prova in banda per vedere se era tutto a posto. cioè tutto a posto, va. E prendi Marcolino. Ehi, Antone, tu hai la 827 adesso, vero? Sì, sì, Basilio, una bella antennona, sì. Ehi, ormai quella è l'unica alternativa, perché la Sigma Antenne ha chiuso, e ormai quelle, come si chiama, le Mantova Turbo che trovi, se le trovi sono di fondi di magazzino, quindi la Turbo non Mantova, fine della storia con la Mantova, e tutti se vogliono un'antenna buona e robusta, bella pesante, devono ricorrere alla Sirio 827. Da dove l'ho detta, mi sono trovato bene, strutturalmente molto molto resistente, la verità. Ho visto che, vabbè, quei pochi venti che abbiamo avuto in questi ultimi due anni, fa il suo lavoro, poi quest'anno l'ho ben riportata, voglio vedere come si comporta il tubo, poi per detto, la verità, sono contento. Le stazionarie sempre lì stabili, che piova, che non piova, nessuna scarica elettrostatica, la verità, no, sono veramente contento. Ma non mi ricordo neanche quanto l'avevo pagato, non mi ricordo se era sui 100, sui 100, aspetta un attimo, ecco, ce l'ho lì, Sirio 227, compreso in ballo e spedizione, l'avevo pagato, l'avevo comprata da Radio World, di Corrado Davide, Piacenza, dovrebbe essere compreso in spedizione 175 euro, sì, c'è ancora lo scontrino, l'avevo comprata il 26 del 2016. Chi è così tanto costa quarantena? No, io la Mantova 1 a Mantova. A Mantova me l'aveva portata Michele, che era lì, si trovava lì. Ma sono di fronte allo stabilimento delle antenne. Ha detto bigliamini una, giubidù. Ce n'era una, Mantova 1, Mantova 1, non la trovi più, non Mantova 5, Mantova 1 ho messo. Poi tanto lei, ma lì come siamo a 20? Posso metterla tranquillamente la Mantova io senza problemi. No, allora da parte mia, un giorno se vuoi venire te lo vedrai com'è la zona, quando tira vento qua sono dolori, a casa ti puoi immaginare che nel terrazzo si è portato via la bombola insieme al mobile a casa, quando tira vento qua tira vento, sono dolori, sì. E alla fine, valutando, ho risparmiato un po', mi ho comprato questa antenna anche per questa problematica. Sì, con un tiravento qua sono dolori, c'è poco da fare. Io vabbè, la Mantova è Mantova, no? Per il vento che è qua, io sono alto, eppure la Mantova manco si muove. No, ma non ha problemi, già non le fa mettere in natali direttive. Già rimango dentro la scatola, aggiunto 1000 minuti. Capito? Perché lì ci vuole traliccio, altre spese, carrello e punti di valli. Ci rimane 30 riscatola, me la fitta 6. No, la Mantova mette blu. La Mantova è blu, forse vediamo se mette una verticale multibanda, visto così fa ascoltare. Vediamo un po', ma la direttiva non è piatta natale. Non metto assolutamente niente in beata a quella zona e. Io ho sentito un po'. Sì, lo so, perché quando vado lì da mia genera, mia figlia, c'è sempre vento, capito? Va bene, avanti Natalia, riprendi. Aspetta Natalia, mettiti la GP6, mi, così non intendi nulla. Vai Natalia. No, non è la GP6, ti attacchi a culo, la GP6, a me lo dì. Ho sempre odiata quell'antenna io, per carità, senza radiali. Verticale è quella della PKW, metto la 5 bande. Sarete apposta, mia, la prefettura ogni tanto col vento si storce e ogni tanto la raddrizzano. Tu immaginati, quando è stata montata quarantena in prefettura, c'ero anche io, ci hanno messo una settimana prima di accordarla. Lo so, devi dedicare tempo perché c'ha un radiale per ogni banda, ma diciamo non ci vuole una settimana, dai, ci ha analizzato l'antenna, fai molto prima. Vai Natalì. Faccio un esempio qua, lo scorso inverno, sì, è stato qualche giorno che c'era vento, al vicino di casa gli ha alzato il vento tre tegole, capito? Quando ti ripeto, quando tira vento, è qua. Sì, già lo so. Sono già lì loro, già lo so, c'ero anche domenica, quindi già lo so, però pensavo fosse un po' più riparato rispetto a qua, io sono molto aperto per il vento, io sono a oltre 300 metri a livello del mare, considerando il palazzo, quindi via Milano, mi pare che siamo a 2,90 qualcosa, più se consideri l'altezza, altri 50 metri buoni, fate il conto. Sì, perché all'entrata di Ussi sono 200, se non sbaglio, 265 metri del livello del mare all'entrata del paese. Poi Conte inizia a salire su, all'Iterà, e sì, buoni 300 metri dal livello del mare, sì. Perché da lì io l'altro giorno volevo il mio palazzo, capito? Da lì volevo il mio palazzo io, dal piazzale. Quindi poi si vede tutto Sassari, perciò non penso che sia più alto di dove sono io. Però è una bella zona. Solo il fatto che sei campani, anche non per parlare nessuno. Filippo ha più di 1000 metri quadri solo suo di giardino a correre e a sbizzarrirsi. E ha voglia ce n'è. Allora, sicuramente tu sarai molto più alto di me, sicuramente, penso proprio di sì. Sì, alla fine. La verità, la zona l'ho capita, ma sicuramente sarei molto più alto di me, sì. Anche se ho un'ottima vista qua, è la verità, tu l'avrai ancora molto più aperta. Dove sei andato a passeggiare tu, te lo ricordi? A parcheggiare io? Ehi, bella domanda, a parcheggiare dove? A passeggiare, te lo ricordi? No, Cla, mi stai prendendo la sprovvista. Ti ricordi che non siamo usciti per telefono? Che mi hai detto, questa è la zona, che mi hai mandato le foto? Sì, che c'è, in poche parole, una piccola curva a gomito. Poi dopo un pochettino c'è un piccolo piazzale, c'è una casa passottina, Amaranto, quasi Amaranto. E dopo la salita stai dicendo? Esatto, quella che ti ho detto in costruzione, quella lì. Ah, che è tutto grezzo, stai dicendo. Poi ci sono, allora, il cancello, se non ricordo, se è da colorare, è tutto pieno di alberi, e c'ha due piani la casa, in grezzo. Esatto, infatti è una bifamiliare, esatto, lì. Giù compreso, eia, e poi dalla parte destra tu dovrai vedere Muros, giusto? Tu sei in alto di Muros, e ho capito, è una meraviglia. Ma te la posso dire una parolaccia? Si è già capito. Dovete capire due a mettersi il cappotto quando arrivo io, perché li accendo la televisione, li apro il cancello da solo. Sei sopra casa sua. Comunque te lo devo dire, Cla, bagassa tua, sì, bellissima. Già ho capito che i due proprietari sono due persone anziane, lui c'ha i baffi e la moglie è un pochettino malata. Sì, esatto. L'avevo già detto. La cosa che un po' ci ha fatto salire il prezzo, sai qual è, Antonè? Che praticamente loro avevano fatto delle cagate, e quindi l'impresa, perché c'è l'impresa Orani, ha fatto tutti i lavori quella lì, e ha dovuto associare mezzo mondo, capito? Perché c'erano delle cose non a norma, eccetera. Adesso praticamente, se vai a vederla, è molto più bellina di prima. Quel viale che tu hai visto tutto pieno d'alberi, non sai quanto ci ho speso, ci abbiamo speso io e mia figlia, il mio genero, per fare portare tutti quegli alberi con la scala aerea, più di 1000 euro. Perché sono tanti, sì, no, è bellissima, tu rimani abbastanza in fondo, poi gli alberi riservano, e a voglia, ce ne c'è da mangiare, se hai proprio voglia di coltivare, quando te ne andrai in pensione, è bellissimo lì, se ti coltivi tutto quello che vuoi. Non so, adesso non mi ricordo neanche se c'era un posto, ma quel signore ci andava così, ci andava faceva qualche piccola coltivazione sua personale per passare il tempo. No, la zona è molto bella, c'è parcheggio per la macchina, no, comunque lì, confronto a me, sei molto, molto più riparato dal vento, io me lo prendo in pieno. Sì, tu sei leggermente, sei un pochettino più alto, e poi rimane lì pianeggiante. No, è una bellissima zona lì, a voglia, e chi ti rompe le scatole? Però lì è veramente, veramente bello. Lei a voglia, ce ne stanno antenne e contrantenne. No, poi bene o male la struttura c'è già, giustamente poi te la rifinirai a gusto tuo. Sì, ho capito, è bellissimo lì, altro che, è molto, molto bello. No, il piano di sotto, se vai a vederlo, è già finito, se ci sta abitando, io devo finire, però per poter finire, non uscirmene, con tutto i risparmi, praticamente sto vendendo qua, io sto vendendo qua a Sassari, capito? In modo che non sto a destra e a sinistra. Mia figlia è giù e io sono su, io mi ho preso quello di su proprio per il piano di su, che sono uguali, stessa cubatura, però mi serve quello perché c'è una piccola soffitta, abbiamo realizzato una piccola soffitta dove io lì mi faccio la sala radio, ho fatto fare la finestra basculante, condizionatore, ho fatto mettere, capito? E lì mi faccio la sala radio per non stare in mezzo, intanto c'è la scala a scendere, capito? Non è che sono isolato come qua, proprio si vede benissimo. Poi dai, un giorno ci andiamo assieme, non ti preoccupare. Lì ci abita già mia figlia. Ah no, non lo sapevo la verità, vabbè, io quando vado a camminare anche quella zona vado dritto, non sto lì a piagare, no. Non sono il tipico sese che stai lì a sapere come si dice quale prudi degli altri, io ho capito, no, lì è veramente, veramente bella, lei a Puglia. C'è tutto lo spazio e la libertà che uno si mette di avere, non è un lusso. Poi, se ci fai caso, sì, c'è una piccola stradettina, se tu la percorri quella strada, poi ti porta, è una strada romana, poi c'è un mini boschetto e lì guarda, in 3 minuti sei a Cargega a piedi, a Cargega, guarda, è bellissimo, intanto vado anche lì a camminare. Tanto tu la vedrai un giorno, poi se ne avrai voi che farai una passeggiata, c'è questa, quella strada bianca, la prosegui, ripeto, ti porta a una strada romana, tutta a cioccoli, fortunatamente è rimasta lì un piccolo boschetto meraviglioso, e poi ti porta dentro Cargeghe, no, veramente una bella zona, sì, già hai fatto la scelta giusta, secondo me è la zona più bella di Ossi, c'è poco da fare, poi per carità è sempre questione di gusti, sì, molto molto bella. Va bene, dai, così quando avrai finito tutto, tu ti ci vai a mangiare da Claudio, fatta è. Sì, faccio un po' che puntini, chiedi, via. 2,50 m, cioè 2,10 m lungo, alto 1,20 m, il baby pool che ha fatto fuori, ecco, i prefabbricati, l'agenzo, quindi immaginati tu. Vai Marco lì. Io sto mangiando. Metti il traliccio, metti un traliccio tipo Tour Eiffel, ci metti tutte le antenne, anche la HF. Ma ecco, cadi vai, che devo dormire la notte, ti ho detto che ho altre cose a cui pensare, lascia perdere. Lì ci va poi, Antonè, dietro, non davanti, perché davanti è tutto, hai visto come c'è il cancello, no, il cancello abbiamo cambiato, abbiamo c'è il cancello elettrico, tutto, Antonè, non c'è più quel cancello, quindi non ti confondere, cancello zingato, molto semplice, la barra è quella che si apre così, no? Apertura automatica della FAP. Dietro, dove c'è il via alberato, lì dobbiamo fare tipo un canile, dai, capito? Un allenamento di cani. E a voi, no, dai, lì già c'è talmente tanto spazio, guarda, che sarebbe stato della scelta come sistemare la cosa, no, va più che bene, sei dipendente, a fianco non hai a nessuno, e a voi, no, quella zona è tranquillissima, sì, è una meraviglia, è peccato che gli olivi sono belli, che non avveniscono solo a, diciamo, piante molto verdi, ma se vuoi, piano piano, si può realizzare un bellissimo giardino, lei ha voglia che ne faccio, per coltivare, per mettere altro, cosa non puoi mettere? Ce n'è, anzi, te ne avanza pure spazio, e poi, vedere quella cosa bella che c'è anche tua figlia lì vicino, e di più ne vuoi, no, guarda, hai fatto un bel acquisto, poi giustamente se avevi proprio bisogno di cambiare casa, non te ne frega niente di allontanarti da Sassari, guarda, due passi, c'è Lady Market, sicuramente ce l'avrei presente lì, trovi tutto quello che vuoi, c'è la parafarmacia qua, dai, bene o male, sono scendi in piazza e un po' trovi tutto, dai, con la macchina lì, in un minuto e mezzo sei in paese, è vicinissimo, non è lontano, va più che bene. Vabbè, dai, vediamo, ci riusciamo a vendere qua. Avanti, chi è che vuole entrare sul canale 10? Cambio. Non ho capito, chi è? Eia, perché stai uscendo così? Oh, c'è il dottor Brigiacardo, ma lo stai usando? Ma chi è? Capri 2? Sant'Antonio mio. Ma cosa stai usando? L'MD1B8, ce l'ho io l'MD1B8, quello lì stai usando? Ma le malasotte che scido. C'è. Ma chi è? Capri 2? Allora, tu risaltato. Oh, allucinante. Sempre lui, è sempre manovrando, siete conveniente. Mi sa che qualche giorno li stacchiamo i baffi, eh. Proviaridati. Ma la volta a fare a sola anche, come è entrato là, cugino mio, uscio, Maria Gara. Adesso dico io, c'hai la radio nuova. A posto, perfetta, mi ha fatto già conca di Aici. Per procurare l'M60, l'ho procurato l'M60 nuovo, no, il sta sempre toccando e giocando con questo baracchino. Guarda, vabbè, sono stato un mesetto fa, comunque gli ho dato io la dritta KP2, lì a San Marcando c'era un microfono della Kenwood, adesso non mi ricordo, MC, che se lo ricorda più, bellino, mi veniva sui 50 euro. Adesso non so neanche se l'ha comprato quel microfono, c'era uno bello della Kenwood, se non ricordo male, lì a San Marcanda. E l'MC50, un microfono normale da tavolo quello, ce l'ho anche io, anzi ce l'avevo per meglio dire. Ho dato a un radioamatore, gli ha fatto circuito di preamplificazione, perché non è preamplificato, capito? Avanti, Natalì. Un attimo di querenza, dai, che sto facendo cosa qua, vi ascolto. Sì, va bene, Natalì. Sì, Gianni, stai uscendo, ma non stai uscendo bene, però. Ma qua stai usando quello che hai detto a me, l'MD1B8, ma quello della Yaesu, 1.900 euro. Io non c'ho la radio, certo che ce l'ho, c'ho proprio il microfono, l'MD1B8, avevo anche l'MD1C8, che è simile all'MC60, però è diverso, capito? Forse è anche un po' più bellino dell'MC60. Va bene, sì, adesso ti ascolto un pochino meglio col microfono normale, riprendi Antonè. Ciao KP2, buonasera, no, io la verità non ti sento per niente, ti sento malissimo la verità, meglio di prima, però non so se puoi migliorare qualcosa KP2, perché non è limpida la modulazione. Ah vabbè, dai, già sei comprensibile, meglio di prima, dai, comunque buonasera, tu già mi senti bene, sì? Sì, vabbè, guarda, lì sicuramente il circuitino o qualcosa del genere è andato un po' a capito, puliscilo bene perché stava fischiando. Va bene. No, comunque ti ascolto, dai, va bene, meglio di poco fa ti ascolto, non c'è problema. Ok raga, io mi devo allontanare però, perché devo portare il cane, sono già le 7.25. Vi lascio qua, c'è Marco, anche Natalino si è allontanato un attimo. Riprendete voi, io già torno subito, ok? Marco, hai finito di mangiare? No, usci a mandighelli, ti si mandica già vippa. Riprendi Antonio. Io aspettiamo qua. E allora capri tu, che seminara già. Di nuovo in modulazione, dai. Hai ripreso, sono contento. E guarda, se c'è la modulazione masticata, adesso ti sente ancora peggio di prima. Non so dove ti hai toccato, non ti sento malissimo già, molto male. E adesso sì, se hai la possibilità di diminuire ancora l'amplificazione, meglio, stai migliorando. Se hai la possibilità di diminuire, trova un po'. E già va bene, appresso ti porti un leggero fischio di sottofondo, un piccolo disturbo, però nel complesso già ti ascolto bene. No, io sto utilizzando il Royce 642, sempre con le BB+4, è sempre bello, attivo questo pezzo d'epoca, è una meraviglia. Aspetta, qui devo regolare, aspetta un secondo, adesso mi fai un passaggio, aspetta, Vai già, Santiago 910 Radio 5, nell'IP 10 anche sul 15 degli ultimi picchi positivi, però la radio non è limpida, è la verità. Ah ecco, gli stavo dando una mano, no, e tu invece mi ascolti bene, abbastanza limpida, sì, sempre nella mia normalità, la mia tipica modulazione, è la verità, non so senza modularci sopra, anche se lo telefono adesso lo tengo acceso perché ti faccio a giro gli apparati, comunque va bene la mia modulazione, sì. Tanto qui per intanto non posso toccare, un aumento dalle BB+4 non posso fare altro, comunque va bene. Ah, l'avevano l'ho messo addirittura, e allora glielo devi riportare. Dovrebbe riportare, ti avrebbero restituito i soldi, perché lui di regola vende, diciamo, apparecchiature, oggetti, pur essendo d'epoca, funzionanti, come è capitato a me un giorno, avevo comprato una macchina fotografica che mi aveva garantito che la memory card si trovava, invece era talmente vecchia questa macchina che neanche su internet riusciva a trovare questa memory card, dunque senza questo componente non potevi fare poco. Glielo ho detto e tranquillamente mi ha restituito i soldi, con lui era demo che funzionava e che si trovava, invece no. Dunque se tu hai visto che la mano messa non ne valeva la pena, che l'avete dovuto restituire alla fine. Tu non lo so, vedi tu, può darsi che so come l'hai riparato, fai il tuo lavoro, non so. No, ma allora, io ho detto questo, paragonandola, però effettuati con attenzione, dalla mia alla tua, anche tu ce le dai, anche a me ce le dai, io la vedo con un'antenna molto più fina, sai, sicuramente la vecchia antenna che avevi, sai benissimo che col passare del tempo perde la sua funzionalità, no? Adesso giustamente quella è nuova e giustamente ti ha venuto i risultati, però io sto parlando strutturalmente come antenna, la vedo molto più fina confronto alla mia, o sbaglio, sto parlando in quel senso lì, la vedo molto più delicata, io intendo legge, ma intendo delicata, ecco, come struttura, forse che mi stia sbagliando. No, ma tu diciamo da parte tua, tu confronto a me sei molto, ma molto più riparato, confronto a me. Io guarda, quando ti ravvento qua sono dolori. Se ti fidi c'è il mare di fronte, se ti ricordi un bene un po' come quando entri nella stanza lì, apri la finestra, si vede il mare, si vede tutto, la Sinara, Porto Torres, un pezzo di Alghero, il faro di Alghero. Dunque io sono molto ma molto più aperto e dunque ho avuto diversi problemi negli scorsi anni per colpa del vento, mi ha piegato anche il tubo, ti puoi immaginare, adesso quest'anno l'ho messo molto più resistente con dei tiranti in acciaio, non me ne frega niente perché non era possibile, adesso vediamo un po' come si comporterà quest'inverno. Tu confronto a me sei molto più riparato e manca paragone, dunque se avete avuto un'antenna come la mia tu problemi non ne hai, ma comunque se funziona bene sono contento, adesso lì ho trovato lo scontrino, l'ho pagata io il 26 del 2016, dunque ha fatto un anno e quattro mesi l'antenna, però comprese di spese di istruzione l'ho pagato 175 euro, tu invece quanto l'hai pagata quella già? E l'antenna quanto l'hai pagata? Io 175, e sono contento, dai, così fai un passo avanti, ma fortunatamente che è il tempo, io sempre alla solita ricerca di lavoro sono anch'io volentieri, se avrei avuto la testa un po' più libera dal lavoro allora volentieri avrei fatto anch'io questo passo, anche se sinceramente sai preferisco più fare due chiacchiere qua con gli amici al baracchino, ma anche quella è una bella esperienza, sai, è bella anche quella bella, così se c'è qualcuno, scusa, c'è qualcuno che ti rompe le scatole per le antenne, che fa vedere il fondo, loro si chiudono il becco, giustamente non disturbato, già sono delle belle cose, dai, sono contento, adesso piano piano ti riprenderai, tanto ci vuole tutto il tempo, piano piano lava le cose, non le dimentichi, però ti aiuta un po', dai, e anche quella è una bella cosa per chi se la fa bene, no, ma già va bene, adesso sicuramente il prossimo esame sarà, se non sbaglio, nel mese di marzo, giusto? Eia? No, lascia perdere già, inneschi incredibili. No, adesso non sta innescando, però l'amplificazione, la modulazione è troppo amplificata. E adesso si è schiarita, però è troppo amplificata. No, già. Innesco, poi l'hai tolto, lei si è riuscita a eliminarlo, però si è troppo amplificato e sta diventando molto incomprensibile. E così c'è leggermente lontananza, però secondo come regole si sente una piccola alternata, non è perfettamente limpida, quasi a zero è comprensibile, c'è lontananza però ci si può modulare. Però appena tocchi qualche regolazione c'è sottofondo un innesco. Io no, però già ti devo lasciare che oggi le signore sono affamate ed è già pronta a tavola. Se ci sei dopo volentieri, io lascio acceso l'apparato. Copiato già. Troppo amplificato già, nessun rumore di sottofondo, niente alternata, ma troppo amplificato. Assalugai, adesso va benissimo. USB, USB, sì, eravamo in banda laterale col Galaxy, perché in AM non trasmette e neanche in FM. Arrivo, in banda laterale trasmette, solo in AM e FM non trasmette. Adesso appena ho la possibilità vado e lo porto a riparare, che ne vale la pena, non lo lascio così. No, comunque adesso sei perfetto già, ti ascolto benissimo e va più che bene come regolazione. E io no, ma se ci sei dopo volentieri, io lo lascio acceso, tu mi chiami, se ne hai voglia volentieri. Era al telefono. E io, grazie già, ci sentiamo allora, appetito. Ciao Antonello, ciao Gianni se mi sentite, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao, buonasera Giulio, appetito anche a te. Io bene, ciao Gianni. Sento un po' bassino comunque già, oggi già riesco a tirare fuori quello che dici. Ieri no, perché ho avanti ieri, c'era troppo quel rem e non ti ascoltavo. Ma oggi anche se passo già riesco a sentirti. Ok, ciao già, ci sentiamo, dai, ci lascio andare, se sei andato a cenare, ciao. Ok, ciao già. D'accordo, dai, non so come mi sente perché io sto uscendo con un dipolo in verticale, comunque non ho l'antenna Mantova Turbo, l'avevo tirata giù, sto andando col dipolo, comunque riesco a sentirti. E il fatto che ti senta basso probabilmente dipende anche dalla mia antenna. Ok, ciao di nuovo già, alle prossime, condizioni magari ancora migliori, ciao! Ebbè. Chi è che non esce di radio? Ciao Marco, sono andato a cenare, ciao, ci sentiamo. Sì, ciao Giulio, ma sento, vedo una portante, c'è qualcuno che non esce di radio? Antonello, tu sei? No, io non sento nessuno. Ah, vabbè, tutti chiusi hanno, così che? Sei a... Chi è? Sì, ma hanno chiuso gli altri, io qua sto mangiando, finendo di mangiare, dai. Sono rientrato? Ero al telefono io Claudio. 9 più 5 Capri, mica sta provando un apparato. Ma usalo senza preamplificatore d'antenna però, perché sennò i segnali te li va molto alti, capito? Esatto, è quello il segnale che trasmette, capito? Invece se lo aumenti c'ha 20 dB quello, quindi ti dà 20 dB più, mi porti a 40, capito? No, già fa, va bene, dai. Però la radio devi cercare di migliorarla perché è troppo bassa. Vabbè, Antonello è vicino a te, così va benissimo per me. E la fiera di amatore ci devi andare con le soldi in tasca. Io ci sono andato un anno, avevo portato, mi sembra, 1500 euro, ho detto non spendo altro, sì, tutto il blocchetto degli assegni ho consumato. Ia, ho finito, mi sono mangiato il budino adesso, ia. Mi era sentato quella al telefono e quindi ho perso tutta la rotta, dai, non so nemmeno chi sia rimasto. Antonello ci sei? Ehi, pensa che ho pranzato adesso invece. Poc'anzi, ho pranzato, mi no, ho cenato. Ma con che bagatta eri al telefono tu? Come? Ho detto, chissà con quale bagazzona eri al telefono. No, magari. No, femmine non le chiamano qua. No, non va bene così. Ancora della maggiore, perché io ho 24 su 24 il grande fratello VIP in diretta, no? Qua dalla mattina alle 8 sino a quando si coricano per sempre il grande fratello. Ancora della maggiore. Ragazzi, io stamattina ho scoppato per terra, invece di l'ho spazzato per terra, Sant'Antonio mio. Ascolta, ma di quelle che ci sono dentro la casa, chi è che merita? Sorella di Belen, dai, un po' merita, certo non è come Belen, ma chi altro si salva lì? Perché ho visto che ci sono delle vecchiacce dentro, ci sono, c'è cosa, quella francese da non recuperata, Corinne Clery, chi è che si salva lì? Ciao Capri, ciao, ci sentiamo domani, alle prossime. Aspetta, faccio prima girare per i saluti e poi ti rispondo. Vai Natale. Ciao Capri 2, così ti sento appena. Vai Marco. No, vai Claudio, ho detto, chi si salva dentro la casa delle femmine? Ah guarda, c'è Aida Iesfi che mi pare, c'è ancora. Poi c'è quella Giulia, Giulia Soleil, come si chiama, quella lì non è male. semplice, quell'altra per la volista, quell'altra per la cenebre, ragazzi. Marco, io Camerruscio, Simoni, se si mette in costume Camerruscio lì con le ragazzine, non so come fa a pezzi, c'è un fisico micidiale Camerruscio, mi pare che sia, forse quanto è Natalino, perché Natalino è più grande di me. Che non ce li ha già 60 anni, no, ma Camerruscio non ce li ha 60. Tu, Camerruscio 60 anni ce li ha? Sì. Camerruscio? No. 59? No, 57. E allora è più piccolo di me pure. Ma c'è un fisico micidiale, mi Marco. C'è un sedere da paura, Sì, sì, Camerruscio mi è sempre piaciuta. Ma c'è il drive-in era più rapida, poi come è diventata più donna. Degna di nozza, veramente degna di nozza, è molto interessante. Ma l'altro giorno come mai ho visto piangere la sorella di Benè Pignendi e quello che la consolava, cosa è successo? C'è il fratello nomination, c'è il fratello anche, ha visto, c'è il fratello e lei, tutte e due, c'è il fratello nomination, quindi se esce deve rimanere da sola, capite? Infatti l'ha voluta entrare col fratello, l'unica coppia, poi secondo me si li hanno separati, sono due coppie separate adesso, prima era un'unica coppia, un'unica persona, là, per capirci. No, poi se ti interessa c'è Margiulio che sta sempre cercando uomini, ma da tanto ce ne va già uno. Mamma mia, che fastidioso quel culattone, sempre fa scena. Scopata lo trovi, no? Oh, dimmi tu, sei abbastanza educato nel parlare, sei in televisione, a provare a scoppare per terra non si usa a spazzare. Niente, no, bisogna, tutto bisogna ai Dardone, c'è Colina, c'è Camerruscio, c'è Valgiulio, avrai entrato tutto no, Santa Maria Madre Nostra. Tutta gente disperata, gente che non sta più facendo televisione, l'hanno recuperata, messa lì, sai che hanno adesso c'è una bambina, tutta gente che viene pagata, più che quello meno pagato di tutti prende 50.000 euro per 45 giorni, eh? E voi pensi, 50.000 euro per 45 di sarebbe il Kivitrenta. Aspetta, chi è questo che mi ha detto all'ultimo? Mi risulta il nome ma non mi ricordo la persona. Raffaello Tonò, dice di farti la pubblicità dei drammazzi. Cosa sono i drammazzi? Cazzonata lì, è proprio genovese questo, Di Marco Erazzi. No, ho un vuoto di memoria, non me lo ricordo. Raffaello Tonò, l'avrei visto un sacco di volte facendo pubblicità, solo pubblicità fa, come devi sapere imbecille, come si chiama, per i lucido, che fa pubblicità dei materassi lo stesso, dei bagni, quello lì, il marito della spagnola, l'ex marito della spagnola, come si chiama. Ah sì, sì, quello va bene. Comunque Raffaello Tonò non proprio me lo ricordo di nome, già me lo guardo su internet dopo, dai, mi viene in mente. Quell'altro sì, dei materassi, di così non mi viene il nome, però ce l'ho presente di faccia, vedi? Dopo voi in fretta, ma non me lo ricordo neanche io. Sempre a colui faceva la pubblicità e poi chi c'è? Poi quell'altro che è uscito, ne hanno squalificato anche Gianluca, quello che è di Zelig, bravissimo, quello che diceva non sono qua per pettinare il bambolo, quello lì ha detto una bestemmia, l'hanno squalificato, l'altro lo stesso l'hanno squalificato, ne hanno squalificato due molto bravi. Ma una bestemmia vera oppure ha detto porca miseria? Ma cosa mi gioco? Tutto un complotto per far entrare altra gente, no, mi giro e ballo. Qualche cosa, come si chiama? Quell'altro, lo stesso che faceva passaparola, non me lo ricordo, quello non ha detto porca, cosa, se ne scuto questo non ho capito neanche cosa ho detto perché io non lo seguo. Io quando posso evadere la vista televisione evado, capito? Però sappi che qua la mattina dalle 8 a Mediaset sì extra, c'è il Grande Fratello 24 ore su 24. In diretta dalla casa, capito? E sempre mi pure là, attaccato, ancora sono le 8, certo non posso avere né telegiornale né niente, mamma mia che. Che incubo, è un incubo mio. Aspetta, poi alle 8, alle 8 e mezza si cambia, si passa a Maria De Filippi, capito? A vedere quelle tardone, cioè tutti si bisticciano e fanno, quello sino alle 9, capito? Una cosa allucinante, visò tre televisori, no, sempre nel salone, no? Quello più grande di tutti, ma ieri a casa tutto con la tuta, io avvia di andate nel canaletta a guardarti gli amici tuoi, gli amici di Maria, di Giovanni, che io me devo guardare la partita. Ah, uomini e donne, mamma mia quanto lo odio, non lo posso vedere quel programma. Che sì, poi c'è quella che fa sempre la, che fa il giullare lì, come si chiama, quella pazza furiosa con i riccioli, non mi viene il nome, fa scena, fa fesseria, questa è TV spazzatura, me, proprio TV spazzatura, come si chiama, Tina Cipollari. Sì, Tina Cipollari, il buon mio in capo. No, ma guarda, c'è uno lì del, che è un corteggiatore, Giorgio, che c'è un sacco di anni, in gamba, molto, anche abbastanza accolto, proprio ieri si è incazzato, ha detto questo programma sta diventando un pollaio. E io dico che lo è sempre stato un pollaio. Ma chi fa vedere tutti uno in alto all'altro, si bisticciano, poi c'è questa Gemma, Emma, non si chiede di Gemma, la vasi appesi di piattina, per carità. Ma poi stasera stavo guardando, l'unica sera che ho guardato a Barbara D'Urso, perché anche Barbara D'Urso che mi è molto simpatica, però c'era quello che lavorava con Zelig, che dorme in macchina, l'hanno irradiato praticamente da tutte le serie, Rai, Mediaset, da tutto. Da tutto, gli hanno praticamente tagliato la testa perché lui ci doveva, avevano condannato a dare 2000 euro di mantenimento ai figli, non li ha dati e allora l'hanno buttato fuori dalla, capito, da Mediaset, lui lavorava con Mediaset, faceva Zelig, l'hanno buttato fuori, praticamente gli hanno chiuso le porte da tutte le parti, non può più lavorare né in Rai né in Mediaset, da nessuna parte. Adesso se tu a me mi dai la possibilità di lavorare io riesco a pagare, se tu a me non mi fai lavorare io non posso pagare, capito? Dormo in macchina. Addirittura, ma poi non ho capito, cosa gliene frega le televisioni se tu, attenta ma, strampando, cosa gliene frega le televisioni se tu dai o no i soldi a tua moglie, delle cose private, cosa gliene frega la TV? Ma non lo so esattamente perché poi mi sono allontanato e dovevo uscire, dovevo andare al barbiere e non ho seguito bene. No, l'ha condannato il tribunale, capito? L'ha condannato il tribunale. Quindi il tribunale poi ha chiesto il pignoramento dello stipendio, non gli hanno pignorato lo stipendio, come si fa? A chi non paga, no? Che ti pignorano un quinto lo stipendio, no, l'hanno proprio buttato fuori, l'hanno pignorato da tutte le sedi media, sette le sedi Rai, quindi non può più lavorare in televisione, era anche molto bravo. Ho visto che dorme in macchina, sono degli amici che la mattina le portano a colazione, ma come si fa a dormire in macchina? E questo qual era? Che cosa faceva? Cosa diceva? O il nome? Guarda, wow, non me lo ricordo il nome. Tu come si chiama quello dei geni? Che te lo ricordo? Oh. Mia moglie, tra un po' devo mettergli l'apparecchio per gli orecchi. Sì, perché ce ne erano tanti di artisti lì. Chissà qual è. Vabbè, già lo vedrò, dai, poi basta cercare su internet, basta mettere parole chiave, attore Zelig cacciato via, cacciato Mediaset, cacciato Rai, poi già viene fuori, dai. Anche mia moglie il cognome non l'ho sentito, Marco, dice che si chiama come te. Ecco, un comico era, come ti dice Gianluca, lo stesso con i Zerichi, che hanno mandato via la grande fratello Vizio. Comunque stanno, è vero, quello ha detto una cosa, ma non era una vera bestemmia, ha detto maledetta, non me lo ricordo, ma allora le bestemmie non le hanno mai sentite loro, le vere bestemmie, ci devo andare io allora, al grande fratello. Ci ti fanno entrare, Predolini, sì, Predolini, quello non era una bestemmia per me, ma qua tutto un complotto, capito, ne hanno buttato fuori due così, e ne hanno fatto entrare altre tre macchine di Gardena, che si possono anche sotterrare, ti ripeto, io non lo seguo, però mia moglie mi tiene informato di queste cose, capito? E tu, Natalini, Concetta, la baita Maria De Filippi, come l'altra che è Barbara D'Urso, tutti si la baita. Cazzo, Natalini. Guarda, qua lo dico, qua lo nego, ma mi pare che avesse detto che andava a mangiare, a cenare. Perché ogni tanto sparisce. Va bene, va bene. Ha giù capito. Sì. Guarda, chi anima Canale 5 questo, ma vedi, l'altra notte che ho guardato l'intervista di Maurizio Costanzo, ma la veniere l'ha fatta a pezzi, l'ha fatta piangere, ma piangere forte. Ieri c'era cosa, a Pellegrini lo stesso, anche a lei, ti crepa Maurizio Costanzo, ti toglie il passato, ti fa delle domande allucinanti dove ti crea, ti mette in grande difficoltà. Certo, un bacione, anche lui c'è. Vabbè, gli anni passano anche per lui. Un bel ne sono passati, un bel. E questo costante ha fatto una vita, è stato anche dirigente di Canale 5, non so se era direttore, è stato, per Maria De Filippi non l'ha inserita lui, un bel della padrona, Canale 5, con le cose che fa. Quindi, e poi adesso ha inserito anche a Belen ha messo lì a lavorare, capito? Tutti i programmi che fa Maria De Filippi c'è sempre Belen, capito? Quindi tu sì che Vales, anche l'altro programma, quello che fa, ha fatto con l'altra zoccola di Simona Ventura, poi adesso è arrivata l'altra zoccola, capito? Iori Blasi, quante zoccole che ci sono. Sì, la TV è una moltitudine di zoccole. Vabbè, chi più chi meno, dai. C'è posta per te, lo guardate lì. Mamma mia che cosa brutta. Ma quando mai uno fa un programma del genere? No, mia moglie piace anche quello. Poi ti viene la disperazione, poverino. Andai, lampaditi. Non lo posso vedere, tutti pignenti lì. Poi, certe volte ho notato, no? Genitori che ripudiano i figli diventano grandi, diventano autonomi, hanno un lavoro, una casa. Poi, dopo 40 anni, spunta il vecchio genitore che vuole farsi perdonare dei figli, che però, caso strano, è finito in miseria, no? È povero, è diventato povero in canna. Io non credo che voglia il perdono dei figli, ma li cerca perché semplicemente è finito nella cacca, non ha più soldi, e allora cerca i figli per farsi mantenere. Sempre che non sia tutto preparato, beh, perché chissà perché a me in TV sembra tutto preparato. Bravo, è tutto preparato, poi tutte quelle trasmissioni che fa Maria De Filippi sono tutte registrate, sono tutte complottate tra loro, ci sono i copioni che devi seguire, tutte le cose. Tu pensi che chissà Tina Cipollari è in Kiwi Baffalosa? Fa casino, fa audience, capito? Sono pagati lì per stare seduti a fare che cosa? Chiamate opinionisti, le opinioni di gà, ma fateli, vatti due e vai e piccati. opinionisti, ma lo fanno per lavoro, vanno lì e sputano sentenze, così è. Allora siamo opinionisti anche noi, scusa. Anche noi discutiamo di varie cose, però non ci pagano, capito, per dirlo. E quelli li pagano. Mamma mia, chi poi che possa partecipare, tutti pignendi. Non lo posso vedere. Oh, certo che Maria De Filippi con Costanzo ha trovato l'America, sposando Costanzo ha trovato l'America, perché proprio gli è capitato proprio il direttore di Canale 5 o l'ex, non so come sia adesso, e tutti i programmi li ha fatti grazie a lui. Se no cosa credi avrebbe fatto la Di Filippi? Non lo so, la commessa alla Standa forse, all'Upim. Caduto! Già sto uscendo. Sì. Sì, ti ho sentito anche lui che stava bevendo Filippo e San Corso. E quando beve lo devo, aspettare che finisca per asciugare il muso, se no va tutto per terra, capito? Il bambino bisogna stare attento. Sì, sì, ma è così, ma infatti te l'ho detto poco fa. Maria De Filippi, che non era niente, ha esploso tutta la sua saggezza, no? E i suoi ceramenti con questi programmi che fa, grazie a Maurizio Costanzo, chi vuol che l'abbia messa lì. E lei si sta portando dentro tutti quelli che hanno bisogno, perché è una donna molto generosa, capito? Lei sbicconare in merda. Eh sì, ha trovato proprio l'America. Vabbè, meglio per lei. Non sono di quelli che odia i personaggi perché sono vicchi. Oh, per lei. Oh, yeah. Bene, bene. Comunque sì, quei programmi io non guardo niente, né X Factor dove fanno le faccette, no. Prima di votare fanno le facce schifate, sconvolte, ma. Né niente, né amici, poi amici che si cavavano gli occhi. Queste non mi piacciono, le considero proprio TV spazzatura. Non guardo, guardo documentari sulla natura, non lo so, sulla roba di fantascienza, film. Però quelli della De Filippi non ne reggo uno, non ne reggo uno. Guarda, io l'unico programma che guardo di Maria De Filippi, ma non perché non c'è solo lei, c'è Geri Scotti, c'è Rudy, e quello tu sì che vale, perché sono cose nuove, capito? Vediamo, c'era un bravissimo, quello li guardo così, ma guarda, io arrivato a quell'ora intanto mi garamaglieggio, Marco, mi viene un sonno. Quindi non riesco a vedere dei programmi proprio per intero. L'unica cosa, perché la seguo proprio, mi piace, sono le partite. E quindi, però, l'altro giorno, se quando gioca le 6 la Juve, allora va bene, ma se gioca alle 8:30 al primo tempo, mi lusso. Al secondo tempo, che sono già a metà del secondo tempo, perché sono già alle 10:15, così 10:20, buh. Ogni tanto apro gli occhi, però non è che la seguo molto. Sì, ma non ti perdi niente, dai. Non ti perdi niente. Bene, io sono alla frutta. Adesso mi viene lo biocchetto del dopo pranzo, del dopo mangiato, diciamo, non diciamo pranzo perché sennò poi la gente pensa male, no? Mica stanotte mi toccherà un digere a me. Bruccoli al forno, con besciamella, bisogna fare un po' di cose, no? Poi peperoni ripieni, con sempre al forno, con le alici, mamma mia, Sant'Antonio mio. Adesso mi arriva l'aria, che era usci, vado a prendere roba, adesso un altro passo di 8:30 che passava qua, chissà cosa ribuccia la mamma, sta ottima che ha gusotto. Invita la mia cena. Che miseria. Oh, Marco, a pranzo non ho mangiato, A pranzo c'era roba di passato di verdure, questa qui, ho detto, vabbè, mettimi un piatto freddo, però non lo voglio, ubriaco. Ho mangiato solo quello, ho dovuto mi ha detto ci vai, trova intanto che uscire, vabbè, guardi, guardi serio. Sono andato alla Conad a prendere della roba. Oh, mi è venuta questa voglia di mortadella, Marco mio, visto sto mortavellone nel banco lì, nel salume, ho detto, mi fa una mezza di mortadella. Ho preso un pacco di spinatine da no, guarda, morbide, morbide, morbide. Non sono arrivato a casa, ne ho mangiato due. Le voglie ci stanno venendo, però sei incinto. Non mangio di queste cose, capito? Non sto più mangiando, affettati, però stasera no, troppo bella quella mortadella, stavo invitando proprio, stavo invitando, guarda, l'ho preso. Anche mia moglie dice, anche io, lei me la fai anche a me, e ho fatto una spianatina anche a lei, morbida, morbida, ma non avevo proprio la gara, però non la mangio queste cose, la mattina al lavoro mi porto sempre, fenomeno, mi portavo molta frutta d'estate, adesso è cambiata la temperatura, non mi sto portando manco frutta, porto la borraccetta dell'acqua, stamattina ho portato una banana, per quello c'avevo fame, capito? Sennò portavo anche 4-5 pesche, qualche fetta di melone, capito? Adesso la temperatura è cambiata, quindi non c'è bisogno di mangiare frutta, poi esco presto, prima alla fine alle 4, 4 e mezza, alle 5. Adesso alle 2 sono già a casa, perciò non c'è più quel problema, dai. Ma già nel caldo, non si è sentito neanche ieri. Sono impegnato in altre attività. Ci è diventato idraulico in questo periodo, sta facendo un po' di allacci. Eia, vabbè, quello che volevo dire, dai. Meglio che il baracchino, no? E tu la colazione la fai a casa o la fai al bar? Tutte le mattine alle 6:10 in via Pascoli. Non ho capito che c'è in via Pascoli che apre alle 6. Tutte le mattine mi prendo il mio caffè macchiato, mezza grisata e una pasta tutte le mattine. Tutte le sante mattine. Non a casa. Non prende nessuno qua a caffè, neanche mia figlia, niente. Infatti l'unica cosa è che non abbiamo la macchinetta per il caffè, non ne prendiamo caffè, capito? Lo prendo solo io, però fuori. Uno però e basta, basta. Poi sto tutta la mattina acqua, quando necessita. E boh, basta, finito. No, lui vabbè, ce l'abbiamo la macchinetta del caffè, solo che l'ultima volta stava facendo il caffè un po' lonfio, boh. Forse da pulire bene tutta dentro. Gli devo fare un repulisti totale. Magari gli metto anche un po' di bicarbonato, non lo so. Oppure a mucchina. Sì, tipo mucchina, per disinfettarla nella caldaia che è interna. Quella non la puoi smontare per pulirla. È una DeLonghi, ma di quelle da 60 euro è roba economica, non è roba da... Devi mettere il caffè tu, lo pressi, cioè devi usare il caffè in polvere, no, lo pressi e lo carichi nell'ugello. Poi ci sono, vabbè, quelli a cialde, quelli... Guarda, Natalino mi ha fatto un caffè buonissimo l'altro giorno, che gli ho portato il filtro, lui pare abbia detto che ha la macchinetta con le compresse, con le pastiglie già pronte, non sai quelle, usa e getta, non devi pulire niente. E quali dove li compri? Ovunque, da Ocean, da chiunque ce li ha, capito? Non sono cialde, sono delle cartucce, dai, che contengono il caffè. Ma infili, premi il tasto, fatto, non devi pulire niente, perché io metto il caffè normale, no? Devi pulire tutto il coso, come c'erano al bar, no? Lo pressano, lo infilano lì sotto e premono il bottone. Ah, vabbè, ma ci vuole la macchinetta però. No, io non ho detto. No, l'unica cosa che manca qua a casa è la macchinetta per il caffè. Per il resto abbiamo tutto quello che serve, capito? L'ultimo arrivato è il bimbi che mia figlia lo usa per fare tante cose, anche per portare a lavoro. E basta. Però no, non mi prendo io caffè, cioè quello lo prendo dopo pranzo, la notte, no. Io prendo uno e basta. 6:10, 6:15, quindi tanto va alle 7 la volta, quindi c'ho il tempo. A volte quando partiamo le macchine, i miei colleghi, fermati alla quieta, ci vuole il caffè, matta Giulio, vedi voi, ci vediamo a Vidalba o magari dove dobbiamo andare, capito? Allora si fermano, si prendono un altro caffè, io non solo perché mi fa male poi, capito? Non è che ne posso prendere tanti, uno va bene. Sì, anch'io ne bevo uno e poi di solito, poi può capitare, che ne so, quando accompagno mamma dal medico, c'è un bar lì, magari ne approfitto, ma è raro, può capitare una volta ogni due settimane, se no ne bevo uno anch'io, e se no, se no ti viene la tremarella per il più caffè. Bene, gira gira, credo che siano le 8, se non passate, mi sa che chiudiamo e ci sentiamo domani, dai. Ma un pomponio lo stesso non si è sentito. Però almeno che non ci sia adesso. Antonè, ci sei? Sì, boh, sono uscito col cane. Non mi ha saputo dare spiegazione perché quella sera mi ha fatto bidone. Non è riuscito a darmi spiegazione. È venuto colpo di sonno. Stanchezza, anche lui sacrificato, nostro fratello, però il giorno che lo vedo il tiro di orecchie, anche lui sta marciando male, sta, non sia una calmata. E vabbè, no, le 8:20 sono, Marco, le 8:20. Poi niente, quando siamo magari tutti insieme in radio, se voi volete organizzare un altro canale di là, dall'altra parte, capite? Cioè, mai capito? Un altro canale, visto che quello è occupato, facciamo un altro canale per i fatti nostri, magari così a fare qualche prova, qualche volta facciamo due chiacchiere anche lì, quelli che vogliono, però io lì non c'entro, capito? Io sono entrato stasera a fare due prove, ma ok. Eia, sì, scegliamo un canale, uno degli ultimi. Va bene, il 6, il 5, anzi forse sul 5 c'è, sento gente, sul 6 mi pare no, sul 3 sento sempre gente, ma credo che siano quelli di Fiume Santo, che come facciano ad arrivare chiari chiari, fin qua non l'ho capito ancora, allora anche loro non hanno mezzo fatto, magari c'hanno Baofeng, ce li hanno tutti ormai, i cacciatori, quelli giurati, i pompieri. Ho visto un post sul forum, l'ho fatto vedere proprio al telegiornale, c'era il pompiere che parlava al giornalista col Baofeng attaccato sul pettorale, attaccato lì, ed infatti ne hanno parlato sul forum di CBR Radioamatori. Cioè loro quando non vogliono usare i 77 MHz per distanza, no? Per modulare a breve distanza usano i Baofeng, capito? Li costano 30 euro se li comprano personalmente, c'è roba da matti. Tutto di più c'era mai Marco, te l'ho detto. Il giorno che il ministero ha voglia di fare soldi, ce n'è da fare soldi. È lì il problema, però ognuno rischia come vuole. No, io c'ho il mio, c'ho il boxing. Vuoto. C'ho anche il microfonino, tutto è completo. Perché io devo stare con la radio accesa grande a ascoltare. Allora ho collegato l'antenna sulla finestra, l'ho fatto vedere a te, c'ho il connettore su, gli ho messo il connettore, ho agganciato l'antenna e posso usare anche quello perché è agganciato sul suo piedistallo, capito? Lo tengo in mano, quindi non ci sono problemi e uso quello lì per ascoltarci. Poi dobbiamo farci un canale per i fatti nostri, troverò una soluzione, lo metto a minima potenza, non so quanto c'ha, forse c'ha un 4,5 a minima potenza, non so, vabbè, ok, dai, allora chiudiamo, così hai detto. Eia, se no possiamo usare la vecchia frequenza tua di Antonio, ti ricordi? No, non te lo ricorderai manco più. Non me la ricordo, ma poi decidiamo tutti assieme, magari su WhatsApp, tanto c'è anche Giulio, io, tu, Giulio, Antonello, Gianni, Antalino, con la perfetta, capito? Decidiamo dove, come e quando, ci facciamo. facciamo una cosa dei fatti nostri, così, capito? Perché io li ascolto, ascolto tutto, è sempre acceso. Quando io sono qua in radio è sempre acceso anche quello. A volte mi ha fastidio anche ascoltare, capito? Lo spengo. Invece se abbiamo una frequenza nostra si lascia in monitor e quando ci dobbiamo dire qualcosa lo diciamo, non c'è problema. Diga. Va bene, naturalmente se tu vuoi un omologato ti do un omologato, sperando che arrivi anche da Natalino per esempio, dai. Perché lui è infossato, c'ha l'antenna interna lui. Lui parla dentro casa, quindi non lo so se vi sentirete voi due. Io lo sentirò perché sono vicino, ma due pomponi non lo so. Insomma, vabbè, dai, se no pazienza, già c'è il baracchino, dai. Poi se riusciamo a fare qualcosina, meglio ancora. Ok, ci sentiamo. Peccato che non ho potuto salutare Antonello, perché avevo già chiuso, magari andato a mangiare. Io adesso mi guardo Striscia Notizia e poi vediamo se c'è qualche film bello. Ah, sai che film c'è? Aspetta, Sotto Assedio. Mi pare dei terroristi che pigliano di mira Washington. Insomma, è d'azione il film, è molto bello. Infatti me lo guardo, dai. Ok, a domani, buonanotte, buon tutto. KK, ciao Marco, ci aggiorniamo domani. Saluto tutti quelli che sono ascolto sul canale 10 come sempre. Buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Grazie, tu sempre ascoltando, ma non entri mai, la mazza di Nevaria, ciao Gianfra. Ciao Claudio, ciao Gianfranco, ben sentito, buonanotte. Ciao, ciao raga, buonanotte, ciao Gianfri, ci sentiamo. Ciao ragazzi, buon appetito, buonanotte, a domani, ciao. Ciao, ciao, altrettanto. Claudio. Nara. Altra volta, vabbè, io dormo la tardi, ma mi metto a letto prima, no? Mi manda un messaggio a mezzanotte e mezza a Pomponio, accendi la radio. A mezzanotte e mezza, ero già a letto. Ma cosa c'è, mi ha detto. Cosa hai fatto? Nulla. Sono rimasto a letto. Fatto mezzanotte e mezza, ho detto, questo è scemo. Se ti pare che accendo la radio a mezzanotte e mezza, il PMR poi mi. Infatti ho detto, oh, non esiste. E vabbè, dai. Pazienza. Ciao, ciao a tutti, ciao. Perché lui soffre di incubi, capito? Può essere che, non lo so, uno non si rende conto dell'orario, non ha la percezione del giorno e della notte, boh. Quando non era Simone, allora si attacca al baracchino. Mamma mia, come si fa a pensare. Ciao, ciao, ciao. Cane morto, ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte anche a te, sono Ido. Sveglia non ne ho Giuseppe, io sono abituato ragazzino a aprire gli occhi a quell'ora, capito? E quindi sì, alle 5 apro gli occhi, 5 e mezza, mi alzo, 5 e 20. Una 7 mattina alle 6 esco e alle 6.10 sono già a fare colazione, Giuseppe, capito? Va bene, dai, ci sentiamo, che vado a cenare, ciao, ciao, grazie.